GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Saranno una sessantina i testimoni che compariranno al processo per la tragedia del Natisone, in cui persero la vita tre giovani romeni. Sono indagati per omicidio colposo tre vigili del fuoco e un infermiere. A loro la solidarietà dei colleghi e non solo, che hanno già raccolto 100.000 euro. Lavoratori nelle residenze per anziani di serie A e di serie B, i contrattualizzati con Anaste, oggi in sciopero, guadagnano in media 1.500 euro in meno all'anno dei colleghi con contratti con altre sigle. Violenza in famiglia, abusi, stalking e circonvenzione di incapace sono i reati con i quali si confrontano quotidianamente gli agenti del nucleo antiviolenza della Polizia Locale di Trieste, una sezione specializzata che nota un aumento di denunce, ma anche di consapevolezza delle vittime. A 50 anni dalla riforma del diritto di famiglia si fatica a trovare vie consensuali per le separazioni, a denotare una società sempre più conflittuale. Il magnaghese set per la linea verde, la troupe del programma Rai sta concludendo in queste ore le riprese di una prossima puntata della rubrica. Lo stile Liberty aveva una sua fucina negli studi degli architetti viennesi dell'inizio del XX secolo, un design che lasciò il segno a Trieste, Fiume, Pola e lungo il litorale della Liburnia. Al Museo Irci la mostra Modernismi racconta questa eredità. Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Cioc. Saranno una sessantina i testimoni chiamati a raccontare davanti al Tribunale di Udine quali sono i protocolli applicati per il soccorso di persone e come si è proceduto quel 31 maggio del 2024, quando tre ragazzi, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, sono stati travolti dalla piena del Natisone. Il processo per omicidio colposo si svolgerà con rito abbreviato per i quattro indagati, un infermiere della SORES e tre vigili del fuoco. Saranno chiamati a deporre in aula almeno una sessantina di testimoni, tra questi anche l'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi. Nella lista testi, depositato da uno degli avvocati difensori in vista della prima udienza del procedimento sulla tragedia del Natisone, figura la catena gerarchica della sala operativa regionale emergenza sanitaria e dell'elisoccorso, incluso il medico anestesista Amato De Monte, che prima della pensione ha guidato entrambe, avvocato Maurizio Miculan. Qual è un po' la ratio che avete seguito nella compilazione della vostra lista testi? Beh, evidentemente quella di dimostrare in dibattimento che i protocolli operativi all'epoca del fatto SORES sono stati perfettamente osservati e rispettati, con l'evidente conseguenza che nessun tipo di colpevole inerzia o ritardo può essere imputato all'operatore SORES da me assistito. Il procuratore Massimo Lia e il sostituto Letizia Puppa hanno chiesto l'autorizzazione per sentire in aula operatori del numero unico d'emergenza, testimoni oculari della tragedia, i componenti della squadra dei vigili del fuoco intervenuta, membri dell'equipaggio di entrambi gli elicotteri, Drago, dei pompieri e quello sanitario Doppio India, e ancora carabinieri, tecnici del soccorso alpino e ingegneri idraulici per i fenomeni di piena del fiume. Imputati, lo ricordiamo, un infermiere SORES e tre vigili del fuoco. I legali di tutti e quattro hanno chiesto il rito immediato, saltando così l'udienza preliminare, ma in due fasi distinte. Il primo a comparire in aula sarà l'infermiere il 17 novembre davanti al giudice Qualizza. I tre vigili del fuoco sono invece attesi davanti al giudice Faleschini Barnaba il 2 dicembre. Considerato il capo di imputazione comune, omicidio colposo, è possibile che i due procedimenti vengano riuniti. Fra tre settimane, il legale delle famiglie chiederà al giudice l'autorizzazione a citare i responsabili civili. Possibile quindi un rinvio per far sì che all'udienza successiva si possano costituire con i loro legali anche il Ministero dell'Interno per i vigili e l'azienda regionale di coordinamento per la salute per l'infermiere. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono diventate definitive le sentenze nei confronti di due dei tre imputati per l'omicidio di Shinpei Tominaga, avvenuto a Udine nel giugno del 2024, quando l'imprenditore di origini giapponesi venne ucciso da un pugno mentre cercava di sedare una rissa in un locale pubblico. Daniele Vedam, di 20 anni, e Abdallah Juama, di 22 anni, entrambi di Conegliano, hanno deciso di non impugnare la sentenza di primo grado, che li aveva condannati a 2 anni di reclusione senza sospensione condizionale della pena per il reato di lesioni aggravate. aggravate. Non ricorrendo in appello, i due hanno potuto beneficiare della riduzione della pena di un ulteriore sesto, quindi 1 anno e 8 mesi di reclusione. Il responsabile materiale del crimine, Samuele Battistella, 21 anni, di Mareno di Piave, in provincia di Treviso, che aveva materialmente sferrato il pugno che ha ucciso Tominaga, condannato a 12 anni per i reati di omicidio preterintenzionale e lesioni aggravate, ha invece fatto ricorso nel tentativo di cancellare almeno l'aggravante dei futili motivi. Sarà effettuata lunedì presso l'obitorio di Udine l'autopsia sul corpo di Kulvinder Kumar, il 46enne cittadino indiano dipendente della bresciana costruzioni, travolto e ucciso mentre si recava al lavoro in bicicletta sul ponte della Delizia lunedì scorso. L'esame è stato disposto dalla procura di Udine e sarà eseguito dal dottor Lorenzo Desinan. Il legale della famiglia della vittima ha nominato invece dottor Enrico Ciccarelli come proprio consulente tecnico di parte. L'automobilista che ha travolto la bicicletta di Kumar non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la marcia ancora con il mezzo a due ruote incastrato sotto il paraurti. Il furgone danneggiato nell'urto è stato poi rintracciato dai carabinieri all'interno di un capannone nel veneziano. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre la procura di Venezia procede per omissione di soccorso. L'investitore è stato individuato e arrestato poche ore dopo l'incidente e peraltro è persona già rinviata a giudizio per un altro fatto analogo. Contro di lui anche le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. È in corso oggi lo sciopero nel comparto sociosanitario e socioassistenziale del Friuli Venezia Giulia dei lavoratori e delle lavoratrici che applicano il contratto Anaste, che dicono no al rinnovo contrattuale peggiorativo firmato da Anaste stessa con sigle non rappresentative. La UIL FPL del Friuli Venezia Giulia denuncia la chiusura dell'associazione datoriale, che continua a negare il riconoscimento di salari e tutele in linea con gli altri contratti del settore, creando così lavoratori di serie A e di serie B. Gli OS impiegati con il contratto Anaste percepiscono tra 1.200 e 1.300 euro annui in meno rispetto ai colleghi Uneba o cooperative sociali, gli educatori tra 1.300 e 1.500 euro in meno e gli addetti ai servizi e alle pulizie fino a 2.000 euro in meno all'anno. Il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani, SNAMI, ha proclamato invece per mercoledì 5 novembre uno sciopero nazionale che inizierà alle 8 e durerà fino a mezzanotte, con garanzia delle prestazioni indispensabili. Lo sciopero si svolgerà in modalità oraria differenziata per settori: medici del ruolo unico di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali. L'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha reso noto che dalle 8 alle 20 i medici di base saranno comunque tenuti a garantire le seguenti attività: visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonché le ulteriori prestazioni definite indispensabili nell'ambito degli accordi regionali. Dalle 20 a mezzanotte i medici di continuità assistenziale garantiranno le prestazioni non differibili. I casi di violenza di genere e stalking a Trieste sono in aumento del 30% rispetto a un anno fa. I dati sono del nucleo antiviolenza della Polizia Municipale, un settore specializzato composto da 3 agenti e un'ispettrice. Violenza in famiglia, abusi, stalking e circonvenzione di incapace, fenomeni in aumento a Trieste. Crescono le persone denunciate, ma cresce anche la consapevolezza delle vittime, che segnalano di più rispetto a un tempo. In questo 2025 non ancora concluso si contano 107 informative all'autorità giudiziaria, 2 anni fa erano 80, 115 le persone denunciate quest'anno, 98 nel 2023, un più 30% i casi riscontrati dal nucleo contrasto violenza, stalking, abusi della Polizia Locale di Trieste, che ha presentato i dati alla stampa. Noi siamo con Marco De Grassi, vicecommissario della Polizia Locale di Trieste. Effettivamente, grazie al Codice Rosso, che cosa è cambiato per voi nell'azione? Beh, diciamo che con l'introduzione del Codice Rosso il Corpo della Polizia Locale di Trieste ha istituito l'apposito ufficio proprio per dedicarsi a questi casi in via esclusiva con relativa formazione specialistica. I dati sono andati subito in aumento, un aumento che però nell'ultimo anno è notevole, ma probabilmente non è un aumento di casi di violenza, ma semplicemente un aumento di persone che si rivolgono e che hanno trovato coraggio di rivolgersi e fiducia nelle istituzioni. Concretamente nel vostro agire come cambia grazie al Codice Rosso? Cambia che abbiamo dei tempi molto stringenti, 3 giorni praticamente la persona si presenta nei nostri uffici, fa una segnalazione, fa una querela, fa una denuncia, noi informiamo immediatamente l'autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria avrebbe 3 giorni per delegare l'audizione della parte offesa, ma in realtà lo fa subito, e in quei 3 giorni ci organizziamo e vengono fatte le prime attività investigative necessarie e poi si avvia il procedimento. Quindi questi reati denunciati hanno una corsia preferenziale rispetto a tutti gli altri. Il doppio delle persone che in realtà denunciano vengono ad informarsi e poi non denunciano, questo è l'appello. Sì, noi invitiamo tutti quelli che valutano queste situazioni a venire a informarsi e poi a denunciare quello che devono denunciare, perché spesso non facendolo poi si trovano in situazioni molto difficili e pericolose per loro e magari le ritroviamo 3 mesi dopo in una situazione peggiorata rispetto al fatto iniziale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 50 anni fa la riforma del diritto di famiglia introdusse la parità giuridica tra i coniugi e la possibilità della separazione. L'Ordine degli Avvocati di Udine, con un convegno che ha coinvolto anche docenti universitari, ha voluto riflettere sui cambiamenti avvenuti in questo mezzo secolo e soprattutto sul ricorso della giustizia consensuale per le famiglie ancora troppo poco sfruttato. In provincia di Udine 351 nel 2024 le separazioni giudiziali senza cioè accordo tra le parti, da gennaio ad oggi sono già 302, i procedimenti congiunti nei quali invece si è raggiunto un accordo l'anno scorso sono stati 692 e se ne contano 537 nei primi 10 mesi di quest'anno, numeri complessivamente in costante aumento rilevati dal Tribunale e richiamati alla giornata di studio promossa dall'Ordine degli Avvocati di Udine con avvocati, magistrati, esperti dell'università e delle associazioni. L'obiettivo, spiega la Presidente dell'Ordine Raffaella Sartori, e di porre l'accento sulle dimensioni del fenomeno sociale a 50 anni dalla riforma del diritto di famiglia. Il tema dei diritti civili oggi come allora resta centrale, ma il contesto è molto diverso, evidenzia una diffusa conflittualità con caratteristiche che pure sono mutate e ricadute che possono diventare dannose per l'intera comunità. L'ordine professionale, sottolinea l'avvocata Sartori, punta in questo modo a promuovere modelli di composizione del conflitto familiare e di gestione delle separazioni alternativi la tradizionale giustizia giurisdizionale per contenere l'evoluzione conflittuale e contrastarne le conseguenze, in particolare negli interessi dei minorenni. Una strada è la negoziazione assistita, che permette alle coppie di risolvere consensualmente la fine del rapporto con l'assistenza legale, senza procedimento giudiziale e con riduzione di tempi e costi. Sulla stessa linea il recente protocollo d'intesa per procedimenti in materia di famiglia, sottoscritto dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Udine, dagli ambiti territoriali sociali e dall'azienda sanitaria, esperienza pilota in Italia. La giustizia consensuale consente di ridefinire i rapporti familiari, a rimarcarlo anche la presidente vicaria del Tribunale di Udine, Anna Maria Antonini. Le cause non devono essere decise solo dal giudice, afferma, ma devono trovare la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti per garantire il miglior assetto di tutti i componenti della famiglia, nessuno escluso. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. I sindaci dei 6 comuni della provincia di Trieste questa mattina hanno deposto le corone ai monumenti che toccano le tappe simboliche della memoria storica di queste terre. Il sindaco Roberto Di Piazza, assieme ai primi cittadini di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle Dolina e Muggia, si sono ritrovati a Duino Aurisina in piazza Aurisina Cave, dove hanno reso omaggio al monumento a tutti i caduti, per proseguire poi con la deposizione di corone al monumento dei caduti a Sgonico, quindi a Monrupino, e poi alla foiba numero 149. Hanno proseguito poi con la deposizione di corone a Opicina, al poligono, omaggiando i fucilati condannati dal Tribunale Speciale, e poi al cippo del 71 fucilati, quindi omaggio e corone alla foiba di Basovizza e al monumento ai 4 sloveni fucilati nel 1930. Corone anche alla risiera di San Sabba, a Dolino, al Parco della Memoria, per concludere in piazza Marconi davanti al municipio di Muggia. Le 12.44, siamo al tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 19 gradi, a Gorizia 16,5, a Pordenone 16, a Udine 15,5, a Tarvisio e Tolmezzo 13, a Piancavallo e Forni di Sopra 11,5, a Sappada 9, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 8 gradi, sulla costa a Grado 18,5, a Lignano 17. E ora sentiamo le previsioni meteo per il weekend e l'inizio della settimana prossima con Giuseppe Visalli dell'Osmer ARPA. Buongiorno a tutti. Sulla regione il tempo è uggioso a causa della presenza di umide correnti sudoccidentali che ci interesseranno fino alla giornata di domenica. Poi tra la sera di domenica e la notte successiva passerà un veloce fronte atlantico seguito da aria più fredda e secca che garantirà lunedì maggiore stabilità atmosferica. Per quanto riguarda le prossime ore, ancora cielo nuvoloso coperto con piogge deboli e sparse che interesseranno soprattutto con maggiore probabilità la pianura e la fascia prealpina. Temperature massime intorno ai 16-19 gradi. Poi nella giornata di sabato avremo ancora cielo coperto con piogge o piovigini di debole intensità appunto tra la pianura e la fascia prealpina, soprattutto nella prima parte della giornata. Temperature ancora stazionarie e possibili foschie nel corso delle ore notturne sulla pianura e sul Carso. Poi domenica appunto partirà con cielo ancora coperto con piogge deboli o moderate possibili soprattutto verso est sulla fascia prealpina, poi peggiorerà nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata con rovesci temporali a partire da ovest. Soffierà vento prima moderato sostenuto da sud sulla costa e in quota sulla zona montana, poi verso la sera correnti da nord che entreranno con aria fredda e quota neve in calo a 1400-1600 metri sulla zona alpina, soprattutto sul Tarvisiano. Prossima settimana più stabile con alta pressione e cielo che sarà sereno o poco nuvoloso. L'ultimo venerdì di ottobre, da 10 anni ormai in regione, Leggiamo 018 organizza le giornate regionali della lettura, una maratona che vede realizzarsi centinaia di eventi pubblici e privati da mattina a sera in ogni angolo della regione. Riguarda scuole, biblioteche, circoli, esercizi commerciali. A Buongiorno Regione ne abbiamo parlato con la responsabile del progetto, Elena Mengotti. Un libro lungo un giorno è una giornata di festa per tutti che coinvolge sì i nostri bambini ma anche i genitori, i nonni, coinvolge bibliotecari, medici, gli insegnanti, le scuole. È un'iniziativa che coinvolge da 10 anni e grazie al progetto Leggiamo 018 FVG il nostro territorio, che può aderire liberamente iscrivendosi sul nostro sito di Leggiamo 018 FVG per presentare qualunque iniziativa di promozione della lettura. Ci sono molte novità quest'anno, ci sono più di 130 iniziative registrate, ma quelle non registrate sono molte di più. Si legge nelle scuole, quindi si parte dalla lettura a scuola la mattina e poi si prosegue i pomeriggi nelle biblioteche. Facciamo molti progetti con i piccoli comuni, partiamo molto dal lavoro con le biblioteche. Per esempio con i comuni mentani abbiamo fatto in tutto l'arco montano della regione la biblioteca asino, con un vero e proprio asino. Sulla sua somma abbiamo messo tantissimi libri e siamo andati in tantissime scuole dove abbiamo letto con tantissimi bambini. Leggiamo 018 include anche Leggiamo a scuola, che è un progetto al quale aderiscono quest'anno 2800 classi, con più di 6000 insegnanti coinvolti e più di 60.000 ragazzi e ragazze, bambini e bambine. A scuola ogni giorno leggiamo 15 minuti, ognuno legge quello che vuole. Parte oggi la quinta edizione di PN3D. Trading Places, il festival dell'educazione finanziaria dell'Università di Udine e del Comune di Pordenone. Alle 15.30 nell'auditorium della Regione di Pordenone si parlerà di finanza e sport, partendo da una radiografia dell'associazionismo sportivo regionale. Ci introduce l'appuntamento il direttore scientifico del festival e docente di economia degli intermediari finanziari, Stefano Miani. Il tema è finanza e sport. L'obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto le associazioni sportive, in particolare anche quelle più piccole, al fatto che bisogna essere particolarmente attenti anche a questi aspetti per non andare incontro a dispiaceri, perché magari qualche volta gestendo in modo leggero questi profili magari metti la fiducia nella banca eccetera e poi qualcuno che ci ha rimesso anche la casa. Non è l'attività principale dell'associazione sportiva occuparsi dei temi finanziari, ma è una cosa che comunque va fatta. E allora è opportuno che chi gestisce le associazioni, un minimo, come in tutti i campi, si occupi anche di questo tema. Il convegno di oggi è l'appuntamento inaugurale del Festival dell'Educazione Finanziaria, che organizza anche l'Università di Udine. E in generale, qual è l'idea al centro del festival? Il festival serve per sensibilizzare sul tema dell'educazione finanziaria a 360 gradi, quindi l'obiettivo nostro è cercare di interessare più ampio spettro di soggetti possibile, quindi facciamo alcune cose generaliste, altre anche molto più specifiche per target, tipo consulenti finanziari o i lavoratori delle banche o commercialisti, eccetera, come facciamo eventi aperti per gli iscritti all'università della terza età. L'attività comunque prevalente, nettamente, che ci occupa in maniera pesantissima è gli interventi nelle scuole. Nelle scuole andremo praticamente fino a Natale perché non riuscivamo a fare tutte quelle che ci hanno chiesto entro la fine di novembre. Sesto al Regen ai Friuli Occidentale, protagonisti di Linea Verde. Sentiamo come stanno andando le riprese. Le telecamere di Linea Verde, storica trasmissione di Rai 1, sono arrivate in Friuli Occidentale per raccontarne le eccellenze enogastronomiche e non solo. 10 giorni di lavorazione, una quindicina di professionisti al lavoro. Li abbiamo incontrati questa mattina a Sesto al Regena. Fabio Gallo, conduttore televisivo. Che cosa ti ha colpito di questi territori? Prima di tutto la bellezza, che per voi è scontata ma per noi non lo è assolutamente, anche se giriamo l'Italia tutte le settimane, e poi questo grande senso di famiglia, di comunità reale che c'è in tutte le situazioni che abbiamo raccontato e in tutte le aziende. C'è una voglia di andare avanti, di continuare, c'è un ricambio generazionale che qua mi sembra proprio che non è un problema, ecco. Fabrizio Nonis, macellaio gastronomo e produttore televisivo. Che specialità hai scelto di raccontare ai telespettatori di Linea Verde? Quelli che appartengono al suo territorio. Qui siamo in Friuli Venezia Giulia, ma siamo in un territorio confinante al Veneto, soprattutto legati, quindi prodotti, al maiale. Per raccontare una storia di un Friuli Venezia Giulia, di un Veneto, sì, legato al fatto di essere contadini, macellai, norcini, ma di essere molto etici, perché del maiale non si buttava nulla. La puntata, che andrà in onda domenica 16 novembre alle 12:20 su Rai 1, mostrerà anche le specialità di Vivaro, Spilimbergo, Casarsa, con un omaggio a Pasolini, e Valvasone, dove sarà sfornato uno speciale pane medievale. Farà tappa anche sul Tagliamento, al Lago di Cornino e San Daniele. Sesto al Regna, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È dedicato a Johann Sebastian Bach il festival organistico internazionale organizzato dalla Comunità Luterana di Trieste, che si apre oggi nella Chiesa Luterana di Largo Panfili in occasione della Festa della Riforma, con il concerto dell'Orchestra Barocca Tiepolo insieme al soprano Fabiana Visentin e alla tromba barocca Diego Kall alle 20:30. Domenica sarà protagonista l'organista titolare della Chiesa Luterana di Trieste, Manuel Tomadini, che si esibirà in un complesso programma di musiche di Bach, Haydn e Schaid. Il festival organistico della Chiesa Luterana proseguirà con il concerto dell'organista tedesco Martin Rost. Protagonista del quarto appuntamento sarà Michele Savino, cantor nella diocesi di Rigel. L'ultimo appuntamento, domenica 23 novembre, avrà ospite lo spagnolo Felipe López, organista di Madrid. Lenghis, il festival di dialetto in lingue minoritarie, rende omaggio a Pierpaolo Pasolini nel cinquantenario della morte, portando in scena stasera l'unico spettacolo in friulano scritto dal poeta di Casarsa, I Turks dal Friul, con la compagnia del Teatro Stabil Furlan e il coro del Friuli Venezia Giulia, alle 20:30 all'Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia. E sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini, avvenuto sul Lido di Ostia in circostanze mai chiarite, viene ripubblicato oggi per Feltrinelli il libro del pittore Giuseppe Zigaina dal titolo Ostia, pubblicato per la prima volta nel 1995. L'artista friulano, amico di Pasolini, sosteneva che fosse lo stesso Pasolini il regista della propria morte. A questa tesi è dedicato anche uno spettacolo di Federica Sansevero e Valentina Del Toso, che va in scena alle 18 nello studio Celiberti di Udine. Uno sguardo d'insieme sulle arti della Venezia Giulia, di Fiume e della Dalmazia dall'inizio del Novecento sino agli anni 30 del Novecento, i tempi fra il Liberty e il Deco e quello offerto dalla mostra Modernismi, che sarà inaugurata alle 17:30 all'IRCI Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana Dalmata di Via Torino a Trieste. Al direttore del museo, Piero Del Bello, abbiamo chiesto che cosa sarà possibile vedere in questa esposizione. Cercheremo di mostrare Trieste, ma insieme tutta la Venezia Giulia, in uno dei momenti artistici più coinvolgenti, quello del Liberty che poi sfocia un attimo dopo nel Deco. Lo vedremo nell'architettura, i tanti palazzi che ancora oggi con i loro decori costellano la città di Trieste, ma Fiume, ma altre anche realtà della nostra antica regione Venezia Giulia. vedremo non solo architettura, ma vedremo anche pittura, arti applicate, i nostri maggiori pittori, disegnatori, illustratori che mettono la loro mano pescando, iniziando dal Liberty. I nomi facili sono Dudovic e Tricolis, ma poi troveremo Arjorel, uno sconosciuto Umberto Schiavon, con delle opere veramente che passano anche in questo caso dal Liberty al Déco. Troveremo una serie di oggetti della quotidiana bellezza nelle case delle nostre città. Tutto questo per portarci in un'atmosfera che da inizio Novecento va a tutti gli anni 30. L'ogni giorno è il bello di ogni giorno nelle case attraverso le opere d'arte, ma opere d'arte che entrano nel quotidiano della nostra società. Per tutto il fine settimana e anche lunedì 3 novembre, il nuovo allestimento della collezione del Lloyd Triestino nel Museo del Mare, al magazzino 26 del Porto Vecchio, sarà visitabile dalle 10 alle 18. Dal 5 novembre fino alla fine dell'anno il museo sarà invece aperto fino alle 17. Il nuovo allestimento accosta tra loro i dipinti, i modelli, le grafiche e le stampe che promuovevano i viaggi con la compagnia del Lloyd, e poi i documenti di bordo e fotografie d'epoca, proponendo visivamente e attraverso puntuali approfondimenti in ordine cronologico la storia del Lloyd. Il percorso di visita si conclude poi nella sala video, dove i visitatori hanno la possibilità di visionare una selezione di immagini e filmati. Il nostro giornale radio si chiude qui, è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Gennada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.